Radio Virus presenta Rosa di Sera. Da tavolo transfemminista queer Macao, Carlizia, la vocina che ti vizia, legge favole per diventare di tutti i colori che volete. Una fortunata catastrofe di Adela Turin. Prima della catastrofe, la famiglia Ratti viveva in un modesto buco fra la cucina e il ripostiglio di una casa borghese in un bel quartiere della città. Il signor Ratti era un bel topo, fiero dei suoi baffoni e della sua voce stentorea. La signora Fiorentina Ratti, modesta e remissiva, teneva il buco pulito e in ordine perfetto, e i bambini Teddy, Toby e le bambine Nancy, Nora, Nelly, Nazzi, Nanette e Nina lisciati e ben nutriti. Prima della catastrofe, le giornate erano monotone in casa Ratti e coronate tutte dal pasto della sera, attorno al quale la signora Fiorentina si dava da fare tutto il pomeriggio. Il signor Ratti era un buon gustaio. I bambini ammiravano la sua sottigliezza e i suoi baffi quando, con l'aria ispirata e gli occhi al cielo, diceva: «Fiorentina, qua manca un po' di dragoncello tritato, messo all'ultimo momento, e un goccino di olio di noci». Dopo cena, il signor Ratti raccontava ai figli affascinati le sue avventure di gioventù. Le piramidi inviolate dall'uomo, ma quotidianamente visitate dal signor Ratti. Le stive dei bastimenti pirata, sui quali il signor Ratti aveva fatto ripetutamente il giro del mondo. E quella volta nella moschea di Istanbul, e i primi passi sulla luna nascosto nello stivalone di Armstrong. E quella storia del gatto tigrato sul palcoscenico dell'Opéra di Parigi. Non che la signora Fiorentina si annoiasse, e nemmeno che le conoscesse tutte le storie del signor Ratti. Ogni giorno poi ce n'era una nuova. Ma a un certo momento, in punta di piedi, incominciava a rigovernare. E se cadeva il coperchio di una pentola o i piatti si urtavano facendo rumore, il signor Ratti si interrompeva paziente e i bambini dicevano: «Shh! Il papà sta parlando!» Il signor Ratti era presidente onorario della SPICTAM, società per il controllo delle trappole a molla. La SPICTAM era una società di utilità pubblica che non vendeva, non comprava, non produceva, non aveva utili, non impiegava nessuno, non pagava tasse e non depositava bilancio. Grazie ai moderni ritrovati chimici, poi, le trappole a molla erano cadute in disuso e sembrava più che mai difficile riuscire a controllarle. Prima della catastrofe, tutte le mattine il signor Ratti, nervoso e leggermente in ritardo, partiva per il suo ufficio, un buco nel sottoscala del secondo piano della casa di rimpetto. E tutte le sere, prima della catastrofe, tornava stanco e soprappensiero. Alla domanda «Come va il lavoro?» della signora Fiorentina, rispondeva con uno scoraggiante mugolio. Il fatto è che il signor Ratti era stanco. Voleva stare tranquillo, voleva il giornale, le pantofole, le notizie alla radio, un po' di calma, di ordine, i bambini zitti, un aperitivo, una sigaretta e la cena. E la vita continuava nel buco dei Ratti. I bambini alla sera sognavano nei loro lettini le prodigiose avventure del signor Ratti e si addormentavano beati pensando: Il mio papà è un grande topo. Ma poi ci fu la catastrofe. L'inaspettato, l'indicibile. Tutta l'acqua del mondo dentro al buco dei ratti. Il tempo di riparare il tubo rotto e il confortevole focolare se ne andò, pezzo per pezzo, alla deriva. Il panico. Ma dov'è il papà? Il papà è alla Spictam. La signora Fiorentina dovette organizzare da sola il salvataggio di tutti e 8 i bambini. Qualche ora dopo erano tutti rifugiati in un cassetto di un vecchio armadio abbandonato in soffitta. E la sera stessa c'erano già dei letti improvvisati per i bambini e la minestra calda sul fuoco. Il signor Ratti quella sera arrivò molto tardi. Aveva trovato il buco devastato, aveva cercato la famiglia dappertutto, era verde di paura. C'era ancora un po' di minestra e se la scaldò in silenzio, senza commenti. Quella sera niente radio, niente giornale, niente aperitivo e niente pantofole. E poi la vita si riorganizzò dentro il cassetto, ma tutto era diverso rispetto a quando erano nel buco. In mancanza di pentoloni e pentolini, di frullatori e taglierini, la signora Fiorentina prese l'abitudine di esplorare il quartiere alla ricerca di un altro buco. Seguita dai bambini, faceva dei giri sempre più ampi nella soffitta. Poi intraprese la ricerca anche in altre stanze. Erano delle vere avventure. Incontravano cani e gatti, entravano e uscivano da cesti e scatole, salivano e scendevano le scale, scoprivano vecchie carte e giocattoli rotti, mangiavano e bevevano. Di ritorno nel cassetto, attorno alla signora Fiorentina, i bambini commentavano eccitatissimi le avventure della giornata. Si stavano divertendo un mondo. Da una spedizione nel cesto dei giocattoli avevano riportato nel cassetto una chitarra. La signora Fiorentina comprò subito il manualino del chitarrista moderno e in 3 giorni lei e Nancy diventarono delle virtuose. Toby e Teddy si scoprirono delle belle vocine e dal cassetto incominciarono a salire gli echi di canzoni e concerti. Di ritorno dalla Spictam, il signor Ratti trovava i figli tanto allegri ed eccitati che rinunciò presto a tentare di farli stare zitti. Rinunciò anche alla radio. La chitarra e le canzoni ne coprivano la voce e alle pantofole, perse nella catastrofe. Ma non gli riuscì proprio di rinunciare alle buone minestre. Così si mise al lavoro. Provò e riprovò e ogni volta la minestra riusciva un po' meglio. Ma ci volle tempo perché arrivasse alla perfezione di quelle della signora Fiorentina. Fu per lui un vero trionfo e diventò difficile interromperlo quando raccontava le sue prodezze culinarie. Ora è tutto asciutto nel buco in cui un tempo abitava la famiglia Ratti e la famiglia Sorci ha deciso di insediarvisi. Felici e fiduciosi, i Sorci arrivano con la loro cucina, la poltrona, le lampade e le casseruole. Sfortunatamente, nessuno di loro sa che un idraulico poco scrupoloso ha riparato male il tubo. Avete ascoltato Rosa di Sera. Favole per diventare di tutti i colori che volete. Per contattarci, scrivete a rosadisera@autoproduzioni.net. Rosa di Sera, su Radio Virus, il lunedì e il giovedì alle 21:00.